si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. La presentazione di emendamenti non cambia niente, si voteranno e vedremo chi ha i numeri su questi emendamenti e discuteremo. Buone vacanze a tutti. Eccoci qua, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, 18, 20 e 30, 800, 24, 00, 24, ovunque voi siate, al mare, in montagna, in città, in vacanza o al lavoro, noi siamo qua a lottare insieme a voi, 800, 24, 00, 24 per i vostri interventi in diretta tra poco. Chi invece sta per andare in vacanza è il Parlamento, l'avete sentito, buone vacanze a tutti. Pietro Grasso, risentiamolo. Buone vacanze a tutti. Però c'è la tegola, la grande tegola degli oltre 500.000 emendamenti per quanto riguarda la riforma del Senato. E insomma, dice Calderoli, che è l'estensore di molti di questi emendamenti, manderemo in tilt il Senato, perché solo per stampare tutti questi emendamenti per tutti e 300 i senatori, quanti sono, ci vogliono 160 milioni di copie, una cosa folle. Sentiamo chi è questo, Borghi, Lega Nord. Alla fine, tirando le somme, questa grande novità, questo Renzi, questo bene del paese, così, questo tipo, che cos'è? Il nulla parlamentare che è questa riforma del Senato, no? Di cui oggettivamente non frega niente a nessuno. Ecco, la cosa curiosa è questa: se, come dice Borghi della Lega, della riforma del Senato non gliene frega niente a nessuno, ma pensate se gliene fosse fregato qualcosa alla Lega in particolare, quanti emendamenti ci sarebbero stati? Non 500.000, ma diversi milioni, non lo so, vedete voi, Emiliano. Noi non possiamo fare come Calderoli, non possiamo metterci a fare emendamenti semplicemente per perdere tempo, per bloccare una riforma. Bisogna spiegare le proprie ragioni. Noi dobbiamo sederci a un tavolo e capire che siamo tutti sulla stessa barchetta, perché l'Italia è una barchetta di soli 60 milioni di abitanti, cioè un paese piccolo che fa i miracoli già nella competizione internazionale, ma per continuare a fare i miracoli, perché siamo ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa, dobbiamo essere molto più uniti e compatti e fare meno chiacchiere a Roma. Buone vacanze a tutti. Ecco, appunto. A proposito di barchetta, come dice Emiliano, con questa immagine abbastanza significativa, no? dell'Italia nel mare della competizione internazionale, ma al di là di questo, a proposito di barchetta, sentite che cosa dice Renzi in conferenza stampa a proposito dell'immagine dell'Italia, dell'immagine di questa barchetta, che è l'Italia appunto nel mondo. Ieri sera abbiamo parlato molto di questa questione a proposito del fatto se si debba o no per alcune città del sud, in Campania tra Napoli e Caserta, offrire ospitalità alla serie TV Gomorra, perché alcuni sindaci sono contrari per una questione di immagine. Renzi in un certo senso sembra essere d'accordo. Io non voglio più sentire da un autorevole leader, capo di Stato, capo di governo più correttamente, europeo, sentirmi dire alla mia discussione, era una discussione pur parlé fuori da un vertice, vabbè, dice, facciamo un bilaterale, io gli dico facciamolo a Palermo, nella mia testa bisogna fare i bilaterali nelle città, e allora ho proposto Palermo. Dice, ma a Palermo si spara per la strada, mi ha risposto, ma come a Palermo si spara per la strada? Perché il racconto che noi diamo all'estero continua a essere questo, un racconto frutto di stereotipi. Ma vi rendete conto o no che grida, non applaudite, che grida vendetta questo dato turistico? però se sulla questione della riforma del Senato, di cui come dice qualche esponente della Lega non gliene frega niente a nessuno, può darsi invece che qualcuno interessi la fine del bicameralismo perfetto, cioè un po' più di efficienza nei lavori parlamentari, ecco, se su questo c'è un ricompattamento delle opposizioni anti-Renzi, tra cui la sinistra del Partito Democratico, i bersaniani, tutta quella gente là e anche la Lega, tra l'altro, c'è un tema invece su cui la sinistra e la Lega la pensano diametralmente opposto sempre e comunque, lo dimostra questo battibecco forte tra Vauro e Salvini. Perché ma lei pensa che la democrazia significhi accettare di interloquire con chiunque, anche con persone profondamente razziste e fasciste? Io penso di no. Se il mondo fosse regolamentato come pensa il Signore, sarebbe la giungla. Quindi gli lascio i suoi insulti, lo abbraccio e gli mando un bacione. Io sono buonista, radical chic, sono tutte queste cose. Per cui, siccome non vengo pagato da soldi pubblici, mi posso permettere il lusso di non interloquire con un individuo che io disprezzo moralmente, oddio, Vauro, profondamente, però. E che quando si parla di istigatori di odio, l'ho sentito parlare adesso, beh, il signor Salvini è un campione degli istigatori di odio e l'ha già dimostrato. Sopporto più la matematica che mi perseguita. Ovunque vai, qualsiasi cosa fai, si parla solo con i numeri. Buone vacanze a tutti. La gente parla con i numeri. La gente dà i numeri. Quanto guadagni, quanto risparmi, quanti anni hai e che voto mi dai? E quanto costa questo? E quanta gente c'era? E quanto costa questo? E grazie a te il resto. Buone vacanze a tutti. 1.730.000 si vestono. I numeri degli emendamenti alla riforma del Senato. Pioggia di emendamenti. Fino a qualche ora fa si parlava di oltre 500.000 emendamenti. Adesso qualcuno scrive 6.500.000 di emendamenti in aula. Una delle mani più attive su questo fronte è quella dell'onorevole Roberto Calderoli. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto, quanti sono questi emendamenti? Perché scadeva oggi, no, il termine per la presentazione. È già chiuso, sono 510.293. Ecco, quindi Repubblica.it, che apre con la Lega 6,5 milioni di emendamenti in aula, a cosa si riferisce? Adesso c'è il passaggio in commissione, o ragionano e tolgono di mezzo una riforma che oserei definire come definì Fantozzi la corazzata Potioschi, cioè proprio una cagata pazzesca, ovvero sì. Noi siamo pronti non solo a 510.000 per la commissione, ma per l'aula, passaggio successivo, a prepararne 6.500.000. Ah, come fate a preparare tutta questa roba? Si sta a casa dalle ferie e si lavora per predisporre un qualcosa, sì, per mettere un argine, un attacco alla democrazia. Chi li ha scritti questi 500.000 emendamenti? Quanti sono suoi, della Lega e suoi in particolare? No, della Lega sono 510.293, sì, e ce ne sarà 6.500.000 della Lega in aula. Sì, dopo ma c'è una piccola parte che è stata scritta dagli altri. E chi li ha scritti quelli della Lega? Lei lo sa? L'ho scritto io, il mio ufficio legislativo, il nostro ufficio legislativo, e tanti costituzionalisti, docenti che sono messi a disposizione per mettere un argine rispetto a un attacco della democrazia. Le garantisco che molti di questi non sono leghisti. Ma per affermare c'è un ampio fronte a questo punto, anzi di questo parleremo tra un attimo, ma tornando agli emendamenti, quanto tempo ci è voluto per scrivere 500? Due mesi. Ah, quindi ci state lavorando da due mesi? Esatto. Era un po' che non sentivo più Calderoli, stava lavorando? Mai lasciar dormire Calderoli su qualcosa, perché quando arriva il momento giusto lavora. Due mesi, 500.000 emendamenti. Torniamo tra un attimo, onorevole. Traffico. Si può fare. L'attualità anche d'estate. I numeri non li sopporto più. La matematica che mi perseguita. Ovunque vai, qualsiasi cosa fai. si parla solo con i numeri. Eccoci qua di nuovo, buonasera cari ascoltatori. È vero come dice la Lega che della riforma del Senato non gliene frega niente a nessuno, oppure c'è qualcuno interessato a questa questione qua della fine del bicameralismo perfetto, riforma che ha ancora varie step, però insomma siamo a metà del guado. 800 24 00 24. Calderoli, lo chiedo anche a lei, perché Borghi ma anche Salvini, il segretario del suo partito, dicono che è una roba di cui non gliene frega niente a nessuno. Però io mi domando, se ve ne fosse importato qualcosa, quanti diavolo di emendamenti avreste presentato? Cioè, per essere una cosa che non vi interessa, vi state impegnando abbastanza nello ostruzionismo. No, vede, un conto è quello di cui è disinteressato uno rispetto a una riforma che fa schifo, e rispetto a questo lo confermo che una riforma fa venire la dissenteria. Però il problema è che dietro questa riforma c'è il venir meno della democrazia, che è una parola strausata, ma purtroppo sì. Quando ci si trova di fronte al rischio che venga meno la democrazia, e questo viene già meno quando si toglie la possibilità al popolo di poter votare il Senato, è già un rischio, ma il problema è che dopo aver approvato la legge elettorale sì. Con l'incrocio, con la riforma costituzionale, chi vince anche solo di un voto, e un voto mi si consenta, purtroppo a casa nostra accade anche che uno vince senza aver vinto, grazie ad avere maggior rappresentanti di lista, per un voto. No, non ho capito quest'ultima cosa, cioè in che senso, non tutti i voti valgono uguale? Lei ha visto il film Cettola qualunque mente, dove c'erano le schede bianche che venivano colorate, per dirlo tra virgolette. Brogli elettorali. Vabbè, elettorali. Ma questo però, Calderoli, in passato sì. Sono vinte le elezioni per 25.000 sì. voti con liste che non dovevano neanche competere, perché però potevano... scusi Calderoli, adesso io le dico sì. Con un voto sì. Lei pensa di poter fare il Presidente del Consiglio, cosa sana e giusta, perché chi vince deve averlo, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, ma anche gli organi di garanzia, il Presidente della Repubblica, i 2/3 dei membri della Corte Costituzionale, la maggioranza nel CSM, gli organi di garanzia. Però queste cose sono già così anche oggi, non è che, non, che no, cambia. No, mi scusi, sta sì. dicendo proprio una cosa che non è vera, sì. non è vera, perché oggi parla il Senato, Presidente della Repubblica viene eletto con... il Parlamento in seduta comune con 630 sì. deputati e 320 quello che sono, perché purtroppo cambiano a seconda. Poi viene eletto a maggioranza semplice, quindi basta No, viene eletto a maggioranza assoluta alla sì. fine, ma degli aventi diritto. La riforma fa sì che invece sono dei votanti, per cui al posto con la maggioranza assoluta rischiamo di avere un Presidente della Repubblica numeri alla mano con 220 voti a favore. Sì. Però ripeto, per essere una non cosa succede oggi, quindi sì. non mi dica così. Però allora perché, no, però allora perché Salvini dice che è cosa che non gliene frega niente a nessuno, se invece come lei mi sta dimostrando questa riforma, per quanto sbagliata, è importante che non vada in porto, quindi non è una cosa no, che non conta. No, conta tantissimo, non nel senso, noi siamo a favore del fatto di venir meno del bicameralismo perfetto, perché è una crescita per il paese anche in termini economici. Non ci interessa discutere con una maggioranza che dice o fate così sì. oppure è così e basta, sì. e quindi io dico non interesserebbe. Qui in gioco non c'è il bicameralismo perfetto, c'è che una persona diventi una persona sola al comando. In va questo bene. Senso io rifaccio la resistenza, ecco. Però sa cosa pensano molti? Pensano, ma come Calderoli, proprio lui che quello del famoso porcellum, no? Non bastava quella porcata lì. Adesso con questa cosa degli emendamenti dell'ostruzionismo sembra adesso basta con queste stronzate, me lo faccia dire francamente, perché la riforma del porcellum è stata votata dal Parlamento sì. punto, e quando una cosa è stata votata dal Parlamento con emendamenti e proposte di legge parlamentari, poi dopo attribuitemi continuamente la storia del porcellum, poi continuerò a dire che qualunque tipo di influenza su di me c'è stata da parte del Presidente della Repubblica dell'ora Ciampi, dal Presidente Fini, dal Presidente Berlusconi, dalla sinistra, perché poi alla fine tutti i partiti volevano decidere in casa propria chi eleggere. Benissimo, scaricate. Poi dopo c'è stato un Parlamento che l'ha votata quella legge, Quindi ragazzi miei, cioè basta questa storia, perché chi l'ha definita porcata, scusi, ma chi l'ha definita porcata è stato il sottoscritto, appunto, prima di usarla, non dopo come avete fatto voi giornalisti e tutto il resto del mondo. Vabbè, ma noi giornalisti sbagliamo sempre tutto, per voi politici, questo si sa, è normale. Senta, però una cosa le voglio chiedere, torniamo sugli emendamenti, perché non c'è il rischio, le parlo proprio di tecnica, no, da ostruzionismo parlamentare, che molti di questi emendamenti vengano considerati uguali tra loro e cadano tutti come è successo in passato con un colpo unico, una tagliola unica, no, di grasso. C'è il canguro che è una tecnica parlamentare e io ho predisposto 500.000 sapendo che questo potrebbe portare il governo a decidere di andare in aula senza il relatore. In aula ho preparato e sto lavorando per quello anche a gusto per 6.500.000. 6.500.000 vuol dire stampare 6.500.000 di fascicoli, di pagine, sì, e distribuirli a tutti, cosa che manderà in blocco completamente la macchina. Quindi diciamo 6.500.000 per il numero dei senatori? 320 devono stampare orientativamente 650 fascicoli da 1.000 pagine, quindi sono dei libroni, sono 10-100 volte una Treccani, distribuirli a tutti. Io penso di non centinaia di fare. Milioni di copie di pagine, ha fatto il conto totale di quante pagine sarebbero? No, perché spero di non doverlo fare. Ritirare a livello della commissione, perché sono disponibile a mantenere 4 emendamenti, discutiamo di quelli, li votiamo, possibilmente anche col voto segreto, dopodiché il signor Renzi andrà sotto, come è successo sul primo voto segreto nel primo passaggio parlamentare al Senato. Ecco, ma a proposito di questi emendamenti, 4, lei dice io ne tengo 4, perché poi stringendo alla fine quello che interessa in questo momento, cioè il fronte, c'è un fronte unito, no? Ma quello che interessa è l'elettività del Senato, è questo il punto fondamentale. Guardi, quello a me, per me è un aspetto marginale, quello dell'elettività del Senato. Per quello che mi riguarda, cioè, il Senato deve esistere e ha dei lavori, delle funzioni da fare, sì o no? Se no lo aboliamo, così non c'è bisogno neanche di discutere di elezione diretta. Però questo Senato della riforma, chiamiamola Renzi, insomma, avrebbe delle funzioni ridotte, no, non però ha delle funzioni, no, poche, male ha. No, non ha più niente, cioè è stato completamente tolto qualunque tipo di funzione che lui svolge autonomamente. A questo punto le dico, aboliamolo. Però i cari parlamentari che dovevano farsi un esame di coscienza, forse 630 deputati sono troppi e costano troppo, dovevano, come abbiamo fatto noi siamo passati da 320 a 100, loro sono entrati con 630 e sono restati 630, una vera e propria vergogna. Questa è una questione, però non è curioso, non trova curioso di essere dalla stessa parte di Bersani in questo momento? Ma guardi, rispetto a Renzi, io con Bersani mi sposo, ecco. Cioè Renzi è talmente, diciamo, il nemico comune che si sposerebbe con Bersani. Ma non è un nemico, è uno che non propone un qualcosa. Cioè uno dice, proponimi qualcosa. Beh, alla faccia, che non proponga qualcosa, propone. Semmai propone cose che a voi non piacciono, propone cose che alcuni giudicano degli annunci. Guardi, però i costituzionalisti, se c'è una cosa che fa, è quella di... La pensano in maniera diversa. C'è chi dice che è una proposta negativa, è un progetto di legge negativo, ma non che non sia una proposta. Comunque in questo momento non la imbarazza essere, diciamo, alleato, ma ci potrebbe essere una strategia invece comune dal punto di vista proprio parlamentare, o c'è già in atto con la minoranza PD, Bersani, eccetera? Ma guardi, io rispetto chi la pensa come me, non sto lavorandoci da 2 mesi come sugli emendamenti, è 2 anni e mezzo che ci sto lavorando. E su queste cose non mi trovo d'accordo coi bersaniani, io mi trovo d'accordo per buona parte coi 5 Stelle, con buona parte del PD che non sono i bersaniani, quelli che ragionano e possono potersi esprimere, solo che queste cose escono col voto segreto e col voto palese, invece hanno tutti paura di non essere candidati, di andare a elezioni. Io dico, facciamo una scelta adesso, o di qui o di là. O passa una buona riforma o non passa nessuna riforma, diversamente non passa la riforma, si va al voto e sceglierà il popolo italiano chi deve governare e Renzi va a casa. E Forza Italia è con voi? Ma sa, Forza Italia c'è sempre il Nazareno, io spero che sia con noi, poi quando ci sono di mezzo le questioni legate sulla RAI... l'atteggiamento cambia, si trova un accordo molto, non lo so, un mi presidente. Auguro di no, perché sennò il centrodestra, sì, buongiorno e buonanotte, non c'è più. Va bene, grazie, buona serata Calderoli. Grazie a lei, e anche buona estate. Grazie a tutti e a tutti gli ascoltatori. Io continuo a lavorare, però grazie lo stesso. Anch'io, 6,5 milioni per farli, voi bisogna lavorare. Mi raccomando, mi raccomando. Grazie. Allora, avete sentito, cari ascoltatori, 800-24-0024, 500.000 sono gli emendamenti della Lega già presentati alla riforma del Senato, per bloccarla naturalmente, ma ce ne sono in arrivo 6,5 milioni qualora il governo riuscisse a bypassare questa forma di ostruzionismo iniziale. I motivi Calderoli li ha appena raccontati. Andiamo con un ascoltatore, Luca da Treviso, buonasera. Buonasera. Eccolo qua, Luca, prego, su cosa voleva intervenire? No, ieri ho sentito una trasmissione, ero collegato su Radio 24, io faccio l'infermiere. Sì. E ho sentito delle proteste da parte delle organizzazioni sindacali rispetto a lavorare ad agosto presso la Santuzzi di Susegana. Sono rimasto un po' così perplesso, perché io per esempio lavoro il giorno di Ferragosto, sono 26 anni che lavoro in ospedale e per me, per i miei colleghi, non è mai stato un problema lavorare né di sabato né di domenica, e tanto meno a Ferragosto, Natale e Pasqua. In un momento di crisi come questo trovo sgradevole che le organizzazioni sindacali si preoccupino di discutere se lavorare o non lavorare. Lo so, tutti quelli che lavorano nei giorni di festa, infermieri, ferrovieri, ma anche giornalisti, poi ognuno ha il suo contratto e fa i suoi conti, però viene un po' l'allergia quando si sente dire che qualcuno non vuole lavorare nei giorni di festa, perché chi lo fa già, capite bene che è già fregato in partenza. C'è da dire che il sindacalista ieri ha specificato che non è arrivata una richiesta formale dell'azienda al momento, ma diciamo al sindacato, che quindi non ha neanche detto no. Cioè, è semplicemente arrivata una richiesta individuale ad ogni lavoratore ad offrire la propria disponibilità. Vedremo alla fine se alla Electrolux a Ferragosto lavoreranno oppure no. Pausa. 6,5 milioni per farli, voi bisogna lavorare. Buone vacanze a tutti. Si può fare. L'attualità anche d'estate. È stata una sorpresa? Or you imagine it was like this? O ti immaginavi così? I did not imagine that it was going to be like this, but I'm so happy to be here. Non si immaginava di vedere tutto questo, ma è molto felice di essere qui. Yes. And go to the Olympics. Oh, fantastic. Vuole andare alle Olimpiadi, vuole diventare una grande campionessa. E questa era l'intervista della Rai alla giovanissima nuotatrice Al Sain Tarek del Bahrain. Lo sapete, soli 10 anni ha partecipato a una gara, credo che fossero i 50 metri farfalla, forse ha fatto anche lo stile libero, perché lei ha detto: sono la nuotatrice del Bahrain più veloce, non c'è niente da fare. E anche se ha soli 10 anni ha nuotato effettivamente. Un caso che ha fatto discutere, perché per esempio l'allenatore della squadra tedesca ha detto: bisogna vedere quanta libertà o quanta pressione da parte dei genitori e dei parenti ha avuto. Penso che una ragazzina di 10 anni sia meglio che giochi al parco piuttosto che essere in una coppa del mondo. E voi, cari ascoltatori, come la pensate? 800 24 00 24, per esempio, vogliamo giocare con voi anche questa sera. Voi cosa sapevate fare a 10 anni di straordinario? Può succedere a volte il contrario, che uno ha una passione, campioncino in erba di un grande sport, poi si lascia perdere come spesso capita e si hanno dei rimpianti. Allora noi questa sera vi offriamo la possibilità di riabilitarvi raccontandoci le vostre gesta quando avevate 10 anni. 800 24 00 24. Anche questa sera mettiamo in palio la mini guida di Expo, edita dal gruppo 24 ore. Anna da Latina, buonasera. Anna da Latina, niente. Mauro da Rieti, proviamo così. Mauro? Buonasera. Buonasera Mauro, benvenuto. Grazie. Ieri sera io ho sentito quel signore che è un buttafuori, che è intervenuto dicendo sostanzialmente certe cose succedono semplicemente perché succedono e perché devono succedere, soprattutto nelle discoteche. Io invece sono d'accordo col magistrato che ha stabilito la chiusura di 4 mesi della discoteca. Sì, il questore di Rimini. Col questore, scusi. Sì. perché ho analizzato la questione da quest'altro punto di vista. Sono anch'io un piccolo imprenditore. Sì. Se io sapessi che nella mia azienda succedono certe cose che non devono succedere, sì, probabilmente farei una pressione adeguata sul mio personale dipendente. Sì. Prenderei dei per vedere dei viso che cosa succede nella mia discoteca, e se certe cose continuano a succedere nella mia discoteca farei in modo che il personale non fedele, il personale che agisce inadeguatamente, soprattutto rispetto a una questione così delicata come dei ragazzi giovani che per l'appunto sì, vabbè, per 16 anni in poi pur non sono neanche maggiorenni, quindi devono essere più protetti nella vita. Mauro, non lo sentiamo più, non la sentiamo più. Abbiamo capito, insomma, la prima parte del suo ragionamento. È d'accordo col questore di Rimini sulla questione della chiusura della discoteca. Secondo lei ad agire doveva essere il proprietario della discoteca. Se non lo fa lui, dice, allora lo deve fare il questore. Il proprietario della discoteca dice in realtà che sono state fatte delle cose, ma evidentemente questa è la prova provata, non è stato fatto abbastanza. Io nei giorni scorsi ho detto che non ero d'accordo col questore di Rimini, preciso solo questo, perché credo che la polizia avrebbe dovuto, potuto fare molti controlli prima forse anche di arrivare a che ci scappasse il morto, anziché poi arrivare dopo a decidere di chiudere la discoteca, che sembra più che altro un provvedimento così di carattere simbolico. Michele da Milano, buonasera. Sì, buonasera, grazie di avermi di darmi questa opportunità. Prego. Vorrei commentare Calderoli, che sì, è una persona veramente deprecabile, alla faccia come il culo. Ha, ecco, creato degli enormi danni. Per usare danni, un francesismo subito, sì. Sì, ha creato degli enormi danni a questo paese con il Porcellum, che è stato dichiarato peraltro incostituzionale. Quindi che abbia ancora la faccia tosta di dare lezioni e intralciare quello che tutti vogliono si realizzi, ossia l'eliminazione di questo bicameralismo perfetto, che è un'aberrazione, ha detto anche il presidente Napolitano, sì, che non credo sia una persona di parte o altro. Quindi è una persona da togliere di torno e da non far più ascoltare. Lo so, però sa, adesso vede, per esempio, la riforma del Senato è incardinata a Palazzo Madama ed è bloccata perché l'onorevole Calderoli ha presentato quegli emendamenti. Quindi, al di là del fatto, io gliel'ho chiesto, sono d'accordo con lei che Calderoli su questi argomenti, diciamo, non ha proprio la patente, perché il famoso Porcellum, eccetera, eccetera. Però di questo stiamo parlando, questa è la cronaca, sono stati presentati questi emendamenti, quindi bisogna parlarne per forza. Sì. Dopodiché poi ognuno giudica sia il merito della riforma sia l'iniziativa di Calderoli. Credo che sia un record di ostruzionismo, qualche ascoltatore esperto di cronache parlamentari ci aiuterà a ricordare se ci sono casi di un numero maggiore di emendamenti mai presentati nella storia. Grazie Michele, andiamo con chi andiamo? Silvia da Milano. Sì, buonasera. Buonasera. No, ma io volevo più che altro esprimere la mia indignazione nei confronti di Calderoli, perché c'è uno che ride ed è tutto così contento di aver sprecato 2 mesi del suo tempo per preparare 500.000 emendamenti. Ma io dico, ma non si vergogna? Cioè, noi paghiamo dei personaggi per stare in Parlamento, per fare questo lavoro? Ma io vorrei soltanto dirgli, ma cosa ti ridi? Cosa ridi? Cioè, non c'è da ridere, c'è da piangere. Per presentare poi emendamenti a sfavore di una legge che ovviamente toglierebbe delle poltrone che loro vogliono, ed è questo il punto, non è altro, non è che gli fa schifo la legge, come ha detto lui, di riforma del Senato. Il fatto di perdere la poltrona a questi signori non va bene, ed è questo il punto. Il conduttore, sì, lui, mi sono aspettato, sì, che lo sottolineasse, perché non è possibile che ogni volta loro si appellano al fatto, una legge, ma se in Europa non esiste un Parlamento che abbia il Senato come il nostro, che blocca e rallenta qualsiasi procedimento di legge, eccetera, eccetera. Adesso non siamo qui a sottolineare qualsiasi cosa, però e questo è il punto, loro i senatori non vogliono perdere, sì, la poltrona. C'è da dire una cosa, Silvia, la prendo in parola, il precedente progetto di riforma della Costituzione firmato centrodestra, e Calderoli lo ha ricordato, prevedeva una riduzione maggiore del numero dei parlamentari, cosa che questa riforma non fa. Quindi a proposito di poltrone c'è questo beh, piccolo, guardi, particolare. Poi così, lei è libera di pensare che Calderoli lo faccia per non perdere la poltrona, e ha tutto il diritto di pensare. Però a me sembra di aver capito che al posto dei senatori ci saranno i presidenti delle regioni, sì, e quindi quelli già sono pagati per un'altra funzione e non verranno pagati. No, ma dal punto di vista dei costi, dal punto di vista delle poltrone, il conto va fatto anche tenendo conto di quello, che il numero dei parlamentari deputati non viene diminuito come molti invece chiedevano. Ma cosa ti ridi? Cosa ridi? Cioè non c'è da ridere, c'è da piangere. Ha sentito? Sì, ho sentito. È già entrata in loop nel programma, Silvia. Grazie. Va bene, grazie comunque, buona serata. Buona serata. Andiamo con Luciano che chiama da Milano. Buonasera, tutti da Milano questa sera. Siete tutti in viaggio verso il luogo di vacanza, l'ambito luogo di vacanza? Non esattamente, no. Sta tornando a casa dall'ufficio? Esatto, ho aperto incidentalmente la radio e allo sconforto dei 38 gradi, 40 percepiti, le parole di Calderoli sono arrivati come un colpo letale. Sono arrivate veramente letale. Ossia, non si sa da che parte cominciare con un uomo così. Ossia, quando uno dice Renzi può piacere o non piacere, ma con l'unica cosa che può dire che non faccia proposte perché lo dicono i costituzionalisti. Questo qua dimostra la logica dell'uomo, la ignoranza spaventosa. Non sottolineo l'uso delle istituzioni e il disboscamento di foreste con 600.000 emendamenti. Sì. Poi qualcuno dovrebbe arginare. Perché questo non dipende da Calderoli, ma dai regolamenti parlamentari. Probabilmente ha ragione lei. Bisognerebbe finirla di stampare tutta sta roba. Anche no, per un semplice motivo: perché mentre una volta poteva essere un atto eroico in mano ai copisti e ai dattilografi, adesso con il copia e incolla e quattro cambi che possono essere automatizzati al computer, io posso produrre 800.000 emendamenti. Perché si legge cosa viene fatto per un emendamento, basta cambiare una data, una mezz'ora, un quarto decimale e viene ammesso. Quindi chiaramente devono cambiare queste cose, e questa fa parte di quelle riforme che personaggi come Calderoli e anche i poveretti dalla sinistra di ex in nome di altri principi vogliono bloccare. Il tutto aggiunto alla temperatura veramente rende sconfortante il quadro generale. Va bene. Stia bene. Grazie anche lei. A 38 gradi mentre torna dall'ufficio il 7 di agosto. Insomma, tutta la nostra solidarietà. Del resto noi siamo qua. L'unica differenza è che siamo momentaneamente all'aria condizionata. Francesco, buonasera. Buonasera a tutti. Da dove chiama Francesco? Da Brescia. Ok. Fa caldo anche qui. Fa caldo in tutta Italia, sai com'è. Intervenivo per sottolineare il fulgido esempio di Calderoli in quanto a incoerenza dei nostri politici. Sì. Cioè, semplicemente da una parte lui si tira indietro, pur essendo stato, se non sbaglio, relatore del Porcellum, dicendo che è stato il Parlamento a votarlo in fin dei conti. D'altro canto, su Radio Padania, che ogni tanto per svagarmi, per ridere, ascolto, danno sempre addosso alla Fornero dicendo che la Fornero di qua, la Fornero ha fatto la riforma del sistema pensionistico, quando in realtà, se è vero, anche in quel caso è stato il Parlamento. Quindi i politici che hanno la memoria corta, gente che ha governato per lustri, che ha fatto la vera porcata della riforma del titolo quinto, con un aumento a dismisura di conflitti tra Stato e Regioni in virtù di un federalismo che non è mai decollato, ecco, questa gente si permette anche di parlare in questa maniera e di insultare le persone che ritengo abbiano la ragionevolezza come fondamento del loro vivere. Tutto qui. Va bene, grazie. Graffica di telefonate contro l'intervento dell'onorevole Calderoli, che ha parlato di come, quando e perché sono stati presentati oltre 500.000 emendamenti, ostruzionismo puro, alla riforma del Senato. Traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. ed ora un simpatico cia cia cia per il pubblico più anziano. Simulate partecipazione ed allegria. La cultura poi ti cura con premura. La cultura, sì la cultura poi ti cura con premura e ti fa anche la fattura. Vado col sole. Ci consentirete questa citazione degli Schiantos? Ha collaborato con la RAI, si occupa di arte, è bipartisan perché in passato ha fatto parte di liste politiche di sinistra e di destra. È l'uomo giusto stasera per parlare del momento culturale che stiamo vivendo. Buonasera al critico d'arte Philippe Daverio. Buonasera Daverio. La sentiamo un po' in lontananza. Sentiamo un po'. Sono un po' in lontananza, sono sì. Sull'autostrada del Piemonte. Ah, però adesso sì, abbiamo recuperato vicinanza, invece abbiamo recuperato vicinanza. Senta Daverio, ha visto le nomine a consiglio di amministrazione della RAI? C'è da dire una cosa, che si fa un gran parlare, poi si cala l'attenzione, nessuno si ricorda più nemmeno chi era il vecchio dirigente, direttore generale della RAI. Adesso si parla solo di RAI. Che ne pensa però di queste nomine? Ha visto i nomi? Qualcuno dice bassa qualità. Ci sembra che corrisponda a ciò che l'Italia si merita. Cosa si merita l'Italia? Poco. Merita una sorta di normalizzazione, sì, che rispetti anche gli interessi della politica. È un po' Cencelli e un po' Modesto. Un Cencelli però, Modesto. Sì, però io di principio non sono mai contrario prima, credo che ognuno abbia il diritto in politica di giocare le proprie carte. Quindi vediamo, e dice, stiamo a vedere. Sono convinto che Renzi ha detto tante belle cose sul rinnovamento, sul cambiamento, sulla funzione dei troppo vecchi, sulle energie innovative, bla bla bla. Noi li crediamo e speriamo che tutta questa ricetta sia contenuta. Sì, Daverio, io glielo dico, scusi, io glielo dico perché la sentiamo con qualche difficoltà. Può darsi che dipenda da, diciamo, dalla marcia di avvicinamento verso qualche galleria, non lo so. No, è la campagna piemontese. È la campagna piemontese, ecco, non so se c'è modo magari di accostare un attimo, forse potrebbe essere utile. Si trova appena l'angolo dove mi accosto, mi fermo. Bravo. E così ci sentiamo un po' meglio. Allora. Senza fare guai, però. No, senza fare guai. Senza fare guai. Eccolo, guardi, si immagini. Fantastico. Anche all'ombra. Ah, beh, quest'ora poi il gran sole non c'è. Però, senta, ma la RAI, secondo lei, è ancora, come si dice, si usa dire, la più grande azienda culturale del paese, oppure non è più così per un qualche motivo? Dipende da quello che intendiamo per cultura. Per un antropologo è la più grande azienda culturale d'Italia, nel senso che forza e parafrasa il sentire nazionale, cioè la sua normalità, il suo umanismo, la sua inclinazione alla varietà. La RAI è l'Italia. La domanda che si deve porre è se non sia il caso di dire quello che faceva dire Goethe al dire il Meister. Quando c'è l'inizio dell'illuminismo in Europa, quando dice non gli daremo ciò che essi vogliono ma ciò che dovrebbero avere. Non è la stessa cosa. Su quello che vogliono abbiamo già le reti private che danno al popolo italiano. Quindi mi sembra di capire che secondo lei, insomma, se un servizio pubblico deve esserci, dovrebbe stare più attento a dare cosa, però quello che si dovrebbe deve avere una vocazione all'informazione maggiore, sì, anche ad affrontare temi che non sono immediatamente di assoluto consumo. Io parlo pro domo mea, ovviamente, però quando ho cominciato a occuparmi di trasmissioni sulla cultura e sulle arti si diceva che nessuno le avrebbe seguite, le seguono il 6-7% degli italiani, sono pochi, però le società sono fatte anche di nicchie piccole che trainano in realtà le onde più larghe. Allora, il pluralismo è un pluralismo di pensiero, non è solo un pluralismo come si pensa in Italia che ci siano tutte le forze politiche, anche la sorella del cognato, che è un altro pluralismo. Però lei crede che questo è fattibile anche oggi in un'Italia dove tutto quello che, diciamo, un po' nell'opinione comune, no, tutto quello che è spesa pubblica, tutto quello che è considerato spesa improduttiva, RAI compresa, viene fortemente criticato. Pensiamo al canone, c'è un canone che finanzia programmi, diciamo, di alto livello ma di poco seguito. Sarebbe, cioè, lei la auspicherebbe, ma è fattibile secondo lei? Ma è obbligatorio, se no perché cosa le paghiamo le tasse? Solo per mantenere i consiglieri regionali, cioè, ragioniamo un attimo, se noi le tasse le paghiamo in cambio di servizi, di un'idea che questi servizi possono migliorare la media della vita della popolazione italiana, che possa trainarli un po' più verso l'alto che verso il basso, per esempio, perché verso il basso c'è già la televisione commerciale che riposta perché è naturale, sì. L'essere umano va nella direzione del cioccolatino, della roba da bere, della pubblicità comune. Tra l'altro questo che le dice potrebbe anche avere come dire, un riferimento anche a come si sta muovendo il mercato, perché la RAI non ha più soltanto Mediaset, dall'altra parte c'è Sky, c'è Discovery che si stanno muovendo molto, certo, su tutti i canali. Quindi lo spazio per la RAI qual è oggi? Questo che dice lei? Cioè il mercato si sta articolando. Devo dire che quelli di formazione extra italiana hanno un'idea della cultura spesso un po' rozza, cioè, soprattutto gli anglosassoni, perché reputano che la cultura per bene vada per i ragazzi di buona famiglia che hanno fatto hit e non hanno bisogno della televisione. L'altro è per la massaia che beve la birra e gli manca il dente. Sì. E quindi è una cosa un po' più raffazzonata. Oddio, questa immagine è terribile, è terribile. Però è chiaro il discorso. Cioè, lei dice: facciamo fare alle TV commerciali, che ce ne sono parecchie, tutto quello che devono fare. Chi avrà i diritti per magari il calcio, e su questo può competere anche la RAI. Chi vuol fare, esatto, chi vuol fare il wrestling, chi vuol fare le fiction di un certo tipo, la RAI si deve ritagliare uno spazio per fare. Una missione per la quale, tra l'altro, le paghiamo il canone. Quindi smettere di fare quei programmi generalisti che competono appunto un po', diciamo, ad ampio spettro. I grandi generalisti sono nella storia del DNA della RAI e servono ad alleviare gli ultimi anni di vita degli anziani. E come tali vanno direttamente il cinismo pagati di Daverio, però l'ha detto in maniera elegante. Però come tale il contributo andrebbe chiesto al Ministero della Sanità. E come lo diceva Milano, cioè questa è welfare, la RAI è welfare, da questo punto. La RAI è welfare, cioè un'età anziana, ha detto Monica Maggioni, scusi, no, neopresidente della RAI, che invece vogliono fare format per i ventenni, ci crede? No, perché non sanno che sono i ventenni. La questione dei ventenni è complicata di così. Perché in RAI sono tutti anziani, anche dirigenti, direttori generali. Di più io dei ventenni, perché vado all'università tutte le settimane a insegnare. Allora è più facile, il contatto con il mondo giovane non è esattamente come uno se lo immagina nelle alte sfere della Torre d'Avorio. Il mondo giovanile è complesso e contraddittorio, è alla ricerca di ideali che non ha oggi e ha mosso dalla forte curiosità e soprattutto sta già convertendosi alla rete rispetto alla televisione. Certo. È retista, non tutto. Però la televisione c'è sempre, anche ma dipende, se... dipende. Guardi, nelle fasce di sperimentazione dei giovani più avanzati, vedo quelli che stanno nelle università, come direi, di punta. Ormai l'80% di ciò che si vede su uno schermo è anche su uno schermo televisivo, ma viene amplificato dal computer sullo schermo televisivo. Si rimpalla sui social network quello che è passato anche in televisione. È una roba che passa, si tira fuori dalla rete e si mette nello schermo e c'è di tutto, dei film, le lingue, tutto, e lì si ritrovano. Quella roba lì che noi pensiamo alla televisione per la parte avanzata dei giovani oggi è roba totalmente obsoleta, è non come c'è più, se è parlassimo tentassimo di insegnargli a ballare il valzer, quello che ballava la nonna nelle feste, un papà, quelli della roba, cioè come se li volessimo imporre la fisarmonica romagnola, che è una bella cosa, ma loro non interessa così. Senta, tanto. Le voglio fare una domanda che è una prova di attendibilità anche di Wikipedia, l'enciclopedia online, perché sulla sua biografia lunghissima, lei ha fatto centinaia di migliaia di cose, dice che a un certo punto ha fatto il bibliotecario nel comune di Salemi, in Sicilia, chiamato dall'altro collega critico d'arte Sgarbi, è vero? No, l'ho detto come scherzo, mi volevano dare un incarico, ho detto l'unica cosa che potrei fare è il bibliotecario, per vedere se una biblioteca sperimentale può avere effetti sulla popolazione. Ma siccome non c'erano i fondi, non è stata fatta deciso, questa cosa. È stata puramente una provocazione mentale, ecco, vedi, in un testo un po' dadaista. Cioè, quindi questa biografia andrebbe presa un attimino con le pinze, perché invece scrive proprio così, presente indicativo, ha fatto, sì, il bibliotecario, e invece era solo una provocazione. Senta, un'altra cosa, a proposito del Colosseo, avrà sentito, sì, perché il ministro Franceschini ha detto che adesso partiranno questi lavori per ripavimentare l'arena del Colosseo per poterci fare gli spettacoli. Chiaramente adesso le chiedo un parere, però in Italia siamo sempre un po' divisi da quelli che dicono soldi sprecati, perché con quei 18 milioni di euro ci si potrebbero coprire le buche, che ne so, nelle strade di Roma, certo, e quegli altri che invece dicono no, ma bisogna tutelare i monumenti, non bisogna proprio toccarli, quindi a chi non gliene frega niente la cultura, a chi gliene frega troppo. Quindi no, guardi, la cosa è molto semplice: a casa della contessa i figli della contessa bevono il caffè nelle tazzine di Meissen. Quando morta la contessa, la tazzina rotta viene regalata alla cameriera, la cameriera la porta a casa e non ha più il coraggio di toccarla perché è la tazzina della contessa. Dobbiamo decidere se il popolo italiano è il figlio della cameriera o è il figlio della contessa. Io opto per farli fare il figlio della contessa, cioè per continuare a usare le tazzine e non doverle rispettare in quanto rispecchiano una storia. Quindi il Colosseo usiamolo anche per fare degli spettacoli di alto livello. A Roma, fino al secolo scorso, addirittura la tomba di Augusto era ancora un'area circense, erano usate. E non vedo perché lo si possa fare all'Arena di Verona e non lo si possa fare a Roma. Cioè, se è vero che i romani sono un po' attardati rispetto ai veronesi, ma tutto sommato, se ci provano i veronesi, si provassero anche a Roma, forse ce la fanno. Daverio, io la saluto perché ho esaurito il tempo, ma anche perché sento che si sta progressivamente allontanando verso la destinazione. Devo scendere verso il mare, sì. Va bene, buona, grazie, buona serata, buona estate. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ci ritroviamo dopo il giornale radio, tra poco. Ma mi sembra una cosa dadaista. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Grazie a tutti. Beh, 6,5 milioni per farli, io bisogna lavorare. Ma cosa ti ridi? Cosa ridi? Cioè, non c'è da ridere, c'è da piangere. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Buonasera di nuovo da Alessio Maurizio. 18 20 30 si può fare, 800 24 00 24. Stiamo insieme con i vostri interventi tra pochissimo in sequenza. Avete sentito i saluti di Grasso, buone vacanze a tutti. Calderoli, che ai nostri microfoni dice: io non vado in vacanza per niente perché devo stare lì a scrivere altre decine, centinaia di migliaia di emendamenti, sono già 500.000, ma Calderoli ha detto promette di arrivare a oltre 6 milioni di emendamenti alla riforma del Senato. Cosa ci avrai da ridere, dice la nostra ascoltatrice. Sentiamo Emiliano. Noi non possiamo fare come Calderoli, non possiamo metterci a fare emendamenti semplicemente per perdere tempo, per bloccare una riforma. Bisogna spiegare le proprie ragioni. Però in questo momento c'è un allineamento tra la Lega e la minoranza del PD su questo tema della riforma del Senato. Tutti la osteggiano, tutti la criticano per lo stesso motivo. L'abbiamo sentito poco fa, bisogna tornare all'elettività dei senatori, bisogna chiarire le funzioni di questo Senato. Quello che preme invece a Renzi è la fine del bicameralismo perfetto, così com'è adesso va benissimo. Diciamo alleanza Lega, minoranza PD, Bersani. Noblesse oblige, sei di sinistra, devi dire alcune cose. Primo, non si lascia morire nessuno. Secondo, in modo ordinato e non buonista, uno Stato si attrezza per l'accoglienza. Mi si fanno sentire spesso di troppo. mi basta poter aprir bocca, ecco, dire quello che penso. Beach on the beach, sotto solo la pelle bruci, sotto luna ancor di più. Quando fuori flex è Superman, senza fare love non si può stare. Buone vacanze a tutti. Beach on the beach, femmine e uomini ai bagni a cash, di occhi neri e di occhi blu. Quante signorine, very nice. Vietato ammalarsi, vietato addirittura morire, magari lo stabilisce una ordinanza che definire curiosa è ovviamente dire poco. L'ordinanza di un sindaco, il sindaco di Sellia, paese di circa 500 anime in provincia di Catanzaro. È con noi il fantasioso sindaco Davide Zacchinella, buonasera. Buonasera. Eccolo qua, Zacchinella, lei è un medico tra l'altro, è vero? Un pediatra. Pediatra, sì. Adesso, prima di arrivare a questa ordinanza, vietato ammalarsi, le credenziali del suo comune, bisogna dirle, bisogna ricordarlo, perché il suo comune, uno potrà pensare, questo è un sindaco di quelli che si inventano le cose, un sindaco pazzerello, però il suo è un comune che vanta dei numeri. Per esempio, raccolta differenziata dei rifiuti, avete in una regione difficile come la Calabria quasi un record. Sì, noi abbiamo avuto nel 2010-2011 una percentuale al di sopra del 73% in una media regionale del 10%. Poi che è successo dopo quella stagione? Poi la regione Calabria è andata in crisi, non ci ha permesso più di differenziare, hanno chiuso dei siti, sì. Si è bloccata la macchina e quindi ci hanno calati di nuovo. Non, ci hanno fatto calare, ma ci hanno fatto pagare anche una penalità perché non abbiamo potuto differenziare, oltre al danno alla beffa. E adesso quindi siete calati per colpa della regione a che livelli di raccolta differenziata? Ma intorno al 50, che comunque per la regione Calabria è sempre 10 volte tanto. È sempre tanto. Adesso, prima di arrivare alle sue preoccupazioni per la salute dei cittadini, un altro record, un altro piccolo record, un piccolo comune, accesso online, internet per tutti, wifi gratis. Sì, noi abbiamo sfruttato un asse dei fondi europei, sì, che favoriva comuni interni. Abbiamo realizzato una nostra rete wifi e il costo non è stato neanche eccessivo. Poi il fatto che siamo pochi e piccoli ci ha permesso di fare una rete si in fa economia. Presto a dare, certo. Quanti siete nel paese? 500 abitanti. Abbiamo fatto una rete nostra, però abbiamo dato internet nel domicilio delle abitazioni gratis, sì, per 4 anni. Pensa un po', questo è un bel incentivo perché a venire per esempio ad abitare lì a Sellia, provincia di Catanzaro, perché com'è il suo comune? Ce lo descrive un attimo. Cioè, guardi, che... il nostro comune si trova, diciamo, una posizione molto bella. Nel senso momento che proloco trova... del sindaco. Sì, si trova a 15 chilometri dal Parco Nazionale della Sila, sì, e a 25 dal Mar Ionio. A 15 km da Catanzaro, a 40 minuti dall'aeroporto di Lamezia Terme. Quindi diciamo che come posizione tra due ecosistemi, il mare. Siete e il lontani da tutto praticamente. Nello stesso tempo lontani e vicini. Lontani, ma non troppo dal suo punto di, sì, vista. Sì, ma sì. Senta, ma lei è un medico, è un pediatra tra l'altro. Sì. Ma è vero che la regione Calabria vanta una speranza di vita, un'età media più elevata che anche altre regioni italiane? Cioè, il tema della longevità. Sì, ci sono stati anche degli studi geriatrici, sì, su alcuni comuni della provincia di Catanzaro proprio, dove c'erano una serie di centenari che insistevano in un'area geografica, esatto, ben precisa. Ecco, è quella la notizia, adesso lo ricordavo esattamente. I centenari, gli ultracentenari, se, sì, si fa la mappa degli ultracentenari nel mondo, sì, si scopre che in Calabria ce ne sono parecchie, alla faccia delle soppressate e dell'anduia. Evidentemente così male non fanno. Beh, forse il peperoncino ha delle proprietà organolettiche che... cardiotoniche. Lei le prescriverebbe ai suoi concittadini che vuole che non si ammalino, perché questo è il tema dell'ordinanza. Che c'è scritto in questa ordinanza curiosa? Per nemesi, io sono pediatra, ma amministro un comune dove ci sono quasi tutti ultra 65 anni, non tutti, ma gran parte. Sì. In questa ordinanza c'è scritto effettivamente che si fa obbligo a farsi cura della propria salute attraverso un meccanismo di incentivo e disincentivo. Poi nella dinamica della comunicazione, per semplicità, si è detto divieto di morte. Magari potessimo Sì, per legge. Per legge fare una cosa del genere. Il nostro obiettivo è stato questo: prima di fare questa ordinanza c'era un retroterra che ci proteggeva. Noi abbiamo allestito un ambulatorio comunale dove si eseguono dei prelievi del sangue e dove una volta fatti i prelievi si portano agli laboratori di Catanzaro, si analizzano gli esami e si portano a domicilio degli assistiti. Inoltre si possono fare delle visite specialistiche e in più sono 5 anni che noi organizziamo un servizio navetta verso le terme di Caronte, che sono alla Lamezia, che sono le più vicine. Quindi abbiamo messo in piedi, in un momento in cui la sanità in Calabria vive il piano di rientro con tutti i tagli che sono stati fatti negli anni precedenti, abbiamo implementato piuttosto che diminuire i servizi. Cioè invece di tagliare siete riusciti invece a dare qualche servizio in più. Certo, e di conseguenza, poiché mi lasci passare questa metafora, una vita umana ha un valore universale dappertutto, da noi forse anche un valore sociale, perché se vengono meno le persone viene meno la stessa esistenza del paese. Però questa ordinanza guarda solo un aspetto, quello sanitario. Poi leggendola meglio, noi abbiamo messo in campo anche iniziative per ridurre l'altra emorragia. Oltre al trapasso c'è anche l'emigrazione che ha spopolato molti centri della provincia. Perché immagino, non so, solo 10 anni fa o 20 anni fa il suo comune le ha secondo mandato. Quando io facevo la quinta elementare circa 20 anni fa, se lì aveva quasi 1000 abitanti. Il doppio. Quindi in 20-25 anni si è dimezzato. Mi toglie una curiosità, c'è una soglia sotto la quale si perdono certi finanziamenti, certi accessi a qualche credito, a qualche cosa? Perché lei ci tiene a non scendere sotto 500? Ma guardi, ci sono delle quote capitarie che si danno, diciamo, ogni abitante, ma non è tanto questo il punto. Per mantenere una serie di servizi, l'ufficio postale, la scuola, ci vuole un numero minimo, è ovvio. Sì, per gli utenti, se no si perde, ma diventa anche un comune antieconomico, dove è difficile anche tenere aperto un bar, è difficile tenere aperta una pizzeria, diciamo. E poi lei capisce bene che tenere ferma il fatto che un paese sia popolato e che ci sia una comunità preserva gli incendi, cura il territorio, cura il dissesto idrogeologico. Più i territori si spopolano, si abbandonano, più i problemi si esasperano, si amplificano, i costi aumentano. Immagino. Quindi qui arriva l'idea dell'ordinanza sulla salute. Ma ci sono, lei diceva, anche degli incentivi economici. Ma spieghiamoci, cioè io mi faccio l'esame del sangue e lei mi fa lo sconto sulla tassa. Non è messo così. Noi abbiamo istituito una tassa di scopo, che è quella che prevede una tassa annuale per finanziare questa struttura, e abbiamo detto che chi dimostra, non solo nella nostra struttura, perché uno può anche scegliere di andare in altre parti a farsi, ma chi dimostra di aver fatto gli esami necessari, gli screening necessari, quelli previsti ad esempio per i maschi, per quanto riguarda la prostata, le donne, la mammella e via dicendo, i pazienti in età geriatrica, i loro controlli, non pagheranno la tassa di scopo. Viceversa, chi invece non potrà dimostrare di aver preso cura della propria salute la pagherà 3 volte tanto. Vabbè, insomma, complimenti, in bocca al lupo, che dire. Cioè, voi sperate anche di crescere, cioè, perché poi questi meccanismi sperate che portino qualcuno a dire: ma vedi, mi trasferisco a Sellia. È accaduto un fatto importante. Sì. Alcuni investitori del Nord Italia che avevano in un primo momento deciso di investire in Brasile o in paesi dell'est Europa dove è più conveniente, hanno preferito Sellia al Brasile. Sì, noi ci stiamo, no, per un fatto di ordine pubblico, perché un imprenditore lombardo che è venuto, sta mettendo su un albergo diffuso a Sellia, mi raccontava proprio questo. Le cifre sono, diciamo, un po' più alte in Brasile sicuramente, però la prima cosa che doveva realizzare è un recinto con degli vigilantes, perché lì la sicurezza non è garantita per nessuno. Qui si sta in pace, in tranquillità, e quindi ha deciso di realizzare un albergo diffuso trasferendo la sua residenza e la sua vita qui, prendendo dei finanziamenti regionali, ma in questo modo però facendo delle attività vere, non quelle solite attività fantasma per prendere i finanziamenti. Ha messo del suo, non cifre enormi, 200.000 euro. Si sono ristrutturate circa 30 abitazioni, ci sono 30 posti letto che possono creare, diciamo, loro hanno, diciamo, il privato ha creato queste strutture per la ricettività. Noi abbiamo realizzato e stiamo realizzando un parco avventura, il più grande parco avventura del Sud Italia, con uno spazio, questo ci tengo a dirlo, e poi questo è il momento proloquo 2 del sindaco di Sellia. Abbiamo realizzato, siamo in corso, e questo anche perché sono pediatra, il più grande parco giochi per disabili d'Italia. Ah, questa è una bellissima notizia. E quindi ce un ne parla. No, prego, finisca. Un bambino con disabilità fisico-sensoriale, sì, potrà, alla pari di un normodotato, venire a divertirsi. Questo è un tema importante, a parte gli scherzi, perché ci sono già alcuni tentativi in Italia di fare dei parchi per bambini disabili. È una cosa su cui c'è un grande ritardo. Grazie al sindaco di Sellia Zicchinella. Grazie a lei per lo spazio che mi ha dato. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco è il vostro momento. Adesso il saluto di Carlo da Expo. Ciao Alessio, sono a Expo e oggi al programma di Lisa Casale, di Cooking Show. Lisa, che abbiamo anche intervistato noi di Si Può Fare, Lisa che cucina con gli avanzi senza buttare mai via niente, e sono qua con un collaboratore di Lisa. E quindi la vera domanda, siccome nel suo programma loro usano tutti gli avanzi e Lisa ricucina con gli avanzi, ma la vera domanda è: gli avanzi degli avanzi, cioè proprio a fine trasmissione, che fine fanno, Claudio? Gli avanzi degli avanzi non si buttano, qui si riutilizza sempre tutto, perciò dopo la trasmissione assaggiamo tutto quello che è rimasto, e quello che rimane il giorno dopo si ricucina e via. Questa è una notizia. Sì, sì, non si butta niente nel cestino, anche le bucce di banana mangiamo qui, di tutto. Ma mandate, nel senso che le mangiate voi lavoratori, le bucce di banana? Purtroppo sì, qualcuno le deve mangiare, no? Si può fare. L'attualità anche d'estate. Eccoci qua di nuovo, buonasera ad Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Tra poco è il momento dei vostri interventi con l'800 24 00 24. C'è un ascoltatore che all'SMS, Luigi da Piacenza, ci scrive: coi mezzi oggi a disposizione, i 6 milioni di emendamenti, quelli presentati sulla riforma del Senato, potrebbero essere inviati ai parlamentari via internet senza stampante. Ha ragione Luigi, però azzecca garbugli. Calderoli invece ci ha spiegato come e perché non è così. Oggi ancora, nell'anno 2015, bisogna stamparli in copia cartacea gli emendamenti, in base a quale, non so, comma del regolamento del Senato. Titolo del TG3. Respingere i migranti è un atto di guerra, lo dice il Papa ai giovani del movimento eucaristico, sopravvissuti del naufragio in Libia, seviziati dagli scafisti. Renzi alla direzione del PD, a settembre le proposte concrete nel masterplan sul mezzogiorno, no alla retorica autoassolutoria, al sud manca la politica, non i soldi. Riforme, oltre 500.000 emendamenti depositati in commissione, la Lega ne minaccia milioni, opposizioni e minoranza PD convergono sul Senato elettivo. Giorno da incubo in autostrada, due incidenti mortali paralizzano per ore la 1 tra Piacenza e Parma e la 14 ad Ancona, malori tra gli automobilisti bloccati in coda. Show di Donald Trump che spiazza i repubblicani al primo dibattito TV tra candidati in vista delle primarie, umi candidati o sono pronto a correre da indipendente. È morto Renato Zangheri, sindaco di Bologna dal 1970 al 1983, durante il suo mandato la contestazione del 1977 e la strage per l'attentato alla stazione. Ai mondiali di moto in Russia, riflettori puntati su Alsain, la più giovane in gara a 10 anni, rappresenta in vasca il Bahrain, polemiche sulla sua età. E allora, come detto, ascoltatori, Tommaso da Padova, buonasera. Buonasera. Prego, Tommaso, su cosa voleva intervenire? A proposito del brillante futuro che ho alle spalle come musicista. Sì, sì, perché io ho chiesto agli ascoltatori, diciamo, di cosa sapevate fare di eccezionale a 10 anni, visto che oggi abbiamo appreso la storia di questa nuotatrice del Bahrain, incredibile, no? Che queste cose che dividono molto, è giusto, è sbagliato. Lei cosa... Sulla nuotatrice io penso che se è stata una trovata della federazione per farci pubblicità, ha avuto successo. Se è stato fatto sulla pelle di una bambina... Ma non credo che fosse solo... Cioè, oddio, può darsi che l'abbiano spinta, però di fatto è una che viaggia, se no non sarebbe stata lì. Ma certo, però io a me è capitato di allenare dei bambini a calcio, molto piccoli, e per quanto tu possa essere talentuoso dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale è un po' presto. A dieci anni sei un bambino, sì, non c'è dubbio. È troppo presto. Tommaso, invece il tuo futuro che hai, bellissimo, radioso, che hai alle spalle... Io a 10 anni ero un promettentissimo batterista. Batterista, sì, 10 anni, strano, perché la batteria non è il flauto, il pianoforte, la chitarra che magari te la mettono in braccio prima. Esatto, no, il flauto lo imparavo a scuola, la chitarra copiavo mio fratello maggiore che suonava la chitarra, sì, e poi mi sono inventato di suonare la batteria ed ero anche bravo. A 10 anni, e cosa è successo? Hai smesso poi? Carriera interrotta? Carriera interrotta un po' più avanti. Ho fatto in tempo a divertirmi tutta l'adolescenza. Però non hai rinunciato a qualche cosa per seguire questo sogno, o sì? Ma no, a dire il vero, oppure no. Nel senso che di non averlo seguito abbastanza questo sogno. Forse magari. Un po', quello sì, forse un po' sì, nel senso che ero molto promettenti. I miei genitori incautamente ma coraggiosamente mi regalarono la batteria quando ero in prima media. E se ne pentirono subito perché faceva troppo rumore, però abbiamo potuto suonare tanto con i miei amici e io sono stato libero di scegliere se approfondire, fare carriera o meno. Ho scelto di fare altro dopo i 18 anni. Ecco. Perché si fa presto a dire, poverina, a 10 anni deve fare altro, deve giocare, non deve nuotare. Poi però si cresce e si vengono i rimpianti. Avrei potuto fare di più, come dice Tommaso, forse per quanto riguarda la sua batteria. Grazie, buona serata. Grazie, buonasera. Alessandro da Verona. Sì, pronto? Prego, buonasera. Buonasera, aspetti. Io volevo intervenire, intanto faccio complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire sulla... Sì. Affermazione di un ascoltatore che diceva che la riforma del titolo quinto, ecco, in chiave federalista, è stata fatta dalla Lega. Sì. È stata fatta dalle sinistre ed è una diciamo riforma che ha permesso solo tetti di spesa autonoma alle regioni. Quindi è tutto il contrario di quello che è il federalismo in sé per sé, che è invece una responsabilizzazione. Perché spendi i soldi che hai. Lei avrebbe voluto il federalismo? Beh, io ero un federalista, sì. Pentito, adesso... pentito, no? No, sono un indipendentista veneto e vorrei un veneto federalista, quindi, capisce? Quindi, ma cioè, non un veneto, più... in che senso? Un veneto, al suo interno addirittura federalista, il veneto dentro se stesso? Non ho capito. Beh. La Serenissima, no? Stato come la Svizzera è uno Stato e una confederazione. Quindi, ma confederazione con chi? Se il Veneto è indipendente dovrebbe fare la confederazione con la Toscana, che non ne vuole sapere, quindi... Ma no, un Veneto indipendente, un Veneto... Beh, Stato, lei è un indipendentista, va bene, no? La conosciamo, la posizione, va bene. Le varie città del Veneto sono confederate, capisce? Ho capito. Va bene, grazie Alessandro, buona serata, grazie. Di Alessio Maurizi. Ecco, per precisare, perché l'ascoltatore ha detto Spezie, credo che si riferisse a Simone Spezie, che fa tante cose... Ma non questa in questo momento, però. Danilo da Cesena, buonasera. Però è bello che ci sia questa immagine della radio che arriva tutti insieme, appassionatamente. Danilo? Pronto? Sì, ha ragione, sto straparlando. Danilo, pronto? Buonasera. Danilo, mi sente da Cesena? Sì. Sì, la sento benissimo. Prego. Allora, io volevo portare la mia testimonianza. Io sono un insegnante di judo. Sì. Quindi ho visto tanti bambini passare... dalla mia scuola, bambini che avevano 6 anni poco tempo fa, adesso vanno in giro con la macchina, con l'amorosa, sono sposati. Il tempo vola. Allora volevo dire due cose. Bisogna stare attenti a non farsi ingolosire dal risultato a tutti i costi in età precoce. Quando finisce l'età precoce, secondo lei? Allora, ogni sport ha una sua maturazione, ci sono sport più tecnici come il judo. Quindi non è una questione di mentale, è una questione tecnica relativa allo sport, perché può essere relativa allo sport e mentalmente, perché se io comincio a caricare un ragazzino già di responsabilità dai 6 anni fino ai 10 anni per poterlo portare a dei risultati ad un campionato italiano di esordienti B, questo ragazzino ha un'alta probabilità di smettere. Troppa pressione, magari fa un risultato lì per lì, però poi alla lunga non va avanti. Quindi la responsabilità della perdita di un talento, chiaro, a quel punto deve ricadere. Ma secondo lei, questo talento. Danilo, visto che da maestro di judo, da quanti anni lo fa? Ah, io ho sempre fatto judo da quando ero bambino, quindi quando avevo 6 anni. È qualche anno. Secondo lei, ho 49, quindi Secondo lei è cambiata l'età, cioè si sta abbassando l'età in cui i ragazzini sono più maturi, più pronti, oppure no? Sì, molto, si è abbassata molto e vabbè, sono cambiati molti tempi, ai nostri tempi c'era più seguito, cioè si iniziava una cosa e tendenzialmente si portava a termine. Vabbè. Ossia, un bambino cominciava a fare uno sport e lo portava fino ai 18 anni. Adesso tende molto a cambiare, a provare, vediamo questo, vediamo quell'altro, e magari poi non, sì. Anche l'educazione in famiglia in questo senso delle volte è un po' deficitaria, perché si tende ad andare dietro un po' anche agli umori, non ne ho voglia, stasera sono stanco e va bene, allora stai a casa, smetti, anche se non vuoi andare più non fa niente, sì. Però diciamo così, un'educazione al mantenere anche gli impegni è importante da parte della famiglia. Quindi l'altra cosa che volevo dire è appunto questa: per fare un campione ci vogliono tante cose, ci vuole fare un albero, no, ci vabbè, vuole adesso qua risaliamo, sì. Ci vuole la famiglia che lo segue, che sia, sì, ma il tema non è tanto, grazie Danilo, non è tanto il tema per fare un campione cosa ci vuole, quanto è confrontarsi con le proprie ambizioni, con le proprie e anche con quello che si diventa da adulti, e eventualmente avere o no dei rimpianti per quello che si poteva fare in un'attività, in uno sport, come è il caso di Tarek, la nuotatrice di 10 anni del Bahrain. Cari ascoltatori, ancora con i vostri racconti su questo, tra poco vi aspettiamo 800 24 00 24, e invece continuiamo a parlare anche di che cosa, con Franco dalla provincia di Bergamo. Buonasera. Buonasera. Prego. Io volevo sensibilizzare su un tema che dovrebbero avere tutti molto vicino, che sì, è il caldo. Sì. Adesso fa molto caldo, soprattutto nelle città. Quello che manca e che non costerebbe niente fare è fare qualche boschetto, o comunque anche qualche solo, qualche bel albero nelle, sì, strade, nelle piazze. Si fa presto a dire boschetto, però ci vuole tempo, no, per far crescere gli alberi, e quindi e bisogna pensare. Voi giovani. Grazie, soprattutto per avermi dato il giovane. Franco, buona serata. Arrivederci. Tina dalla provincia di Milano. Tina? Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io mi sono un po' stancata di sentire tutte le volte, sono anni e anni oramai, la storia della legge elettorale e del Porcello, perché avrà tutti i suoi torti, anche Calderoli, eccetera, quando aveva fatto per esempio il falò che bruciava tutto, che sembrava il semplificatore dell'Italia, eccetera. Però mi ricordo molto bene che lui la chiamò Porcello perché è stato il signor Casini, lui e il suo partito, a voler fare dei cambiamenti e a ridurre a un porcellum. Voi come giornalisti lo dovreste far rilevare tutte le volte e non aspettare che lo facciamo noi. Ecco, in questo caso. E un'altra cosa, la signora che mi aveva preceduto, che si appunto si lamentava di Calderoli, eccetera, per tutti questi emendamenti, sì, siamo in ballo con la storia della RAE, dovrebbe indignarci invece per quello che sta succedendo alla RAI. Cosa sta succedendo alla RAI? Per le deleghe, per le nuove candidature vergognose, ci ritroviamo persino, sì, con un guelfo exirota continua, pensa un po', ecco, e lecca. Vabbè, se è per questo sì, abbiamo avuto anche direttori di Rai 2 della Lega, scusi, sì, certo, visto che lei difende Calderoli, cioè è una cosa che vale per tutti, è sbagliata, fa piangere, ma è così. Per quanto paghiamo, sì, per quanto ci costa la RAI con 13.000 dipendenti, 11, ecco, 11. Con tutti i debiti, e tutti gli anni dobbiamo ripinguare i debiti, e da dove arrivano i soldi? Sempre dal nord, dalla Lombardia e dal Veneto, e noi ci siamo stufati. In più, in un contesto internazionale dove ormai con la rete, la, diciamo che come sta soffrendo l'editoria, è chiaro che anche i canali, e poi con Sky, con TV, il signor Renzi, lei che farebbe della RAI? La chiuderebbe? Privatizzare. Al massimo tenere un canale e non tre. Grazie Tina, buona serata. Tanto non ascolta, quindi è inutile. Questa va avanti. Aiutatemi! Adesso questa va avanti, noi abbassiamo l'audio, va avanti a parlare ancora per un po'. 800 24 00 24, tra poco. Yes, I'm gonna be strong. Yes, I'm gonna be strong. Don't wanna make you too comfortable. When every time you're wrong. Omaggio a Coccoluto DJ, è stato con noi qualche sera fa e ha anche consigliato tra l'altro a Sebastiano Barisoni di cambiare le basi di Focus Economia, e se lo dice Coccoluto DJ io dico Sebastiano pensaci. Per introdurre il prossimo ospite, è stato uno dei più conosciuti e storici buttafuori della Riviera Romagnola, quindi conosce il bello e il brutto dello sballo e ha una sua ricetta su come fermare gli eccessi legati alla droga. È Marco Cappelli, conosciuto col nome di Pucci. Buonasera. Pronto? Eccolo, buonasera, Pucci. Buonasera, salve. Quanti anni buttafuori nelle discoteche della Riviera Romagnola e non solo? Lavoro di buttafuori per ben 24 anni e poi continuato sempre il lavoro nei locali con altre mansioni. Dove? Dove lo ha fatto per 24 anni? Allora, principalmente ho lavorato nelle più belle discoteche della Riviera e 24 anni diciamo li ho passati allo storico paradiso del patron Gianni Fabbri, discoteca la più famosa d'Europa sul Colle di Rimini. Sì, Cocorico? Cocorico non ho fatto diciamo la sicurezza perché non era allora, non esisteva e non era diciamo nella mia categoria. Sono passo un po' più avanti io. È cambiato in questi anni il modo di divertirsi nelle discoteche o di sballarsi? Sì, purtroppo è cambiato perché i tempi miei diciamo i ragazzi si usciva per divertirsi veramente, per ballare, bere qualcosa e cercare di rimorchiare. Adesso è totalmente differente perché adesso escono per andare a ballare nella maniera spontata. Mm-hmm. E ci arrivano che sono già devastati. Già fatti. Chi sono i frequentatori delle discoteche diciamo di oggi fino agli ultimi tempi in cui hai fatto il buttafuori? Giovanissimi? Beh, solo diciamo, giovanissimi? Nel mio target gente diciamo media, specialmente medi. L'età sta ai 25 ai 40, 42, mentre nelle discoteche appunto a cui rivolgete l'indagine sono ragazzini molto molto giovani. Quindi ci sono anche discoteche dove, o anche serate dove magari si concentrano più giovanissimi intorno ai 20 anni e altre serate forse dove si arriva fino ai 40-42 anni, se ho capito. Sì, certamente, certamente. Ma ci si droga, Pucci, dentro o fuori la discoteca? No, allora, la discoteca non ha assolutamente colpa, anche perché con i fatti come sono accaduti ultimamente qui al Cocorico, purtroppo è un uso di droghe che quando arrivano sono già belli cotti, belli carichi. Quindi già all'entrata si vedono, ci si droga più fuori che dentro, secondo? Sì, sicuramente. Ma quali sono le droghe? Stesso discorso anche per l'alcol. Esatto, quali sono le droghe più usate? Mettiamole in fila, canne, ma alcol, ecstasy, MDMA. Questi ragazzi qui usando le droghe sintetiche siano appunto le pasticche. Quindi pasticche in primo piano? Sì, in primo piano. Ecstasy. Una volta diciamo che c'erano le droghe per i ricchi, insomma, che poteva essere la cocaina. Però di cocaina non è mai morto nessuno al mondo, insomma, prima finisce i soldi in banca uno che fa uso. Questa è buona. Beh, però insomma si rischia anche con la cocaina, adesso sì, non diamo un messaggio troppo. No, senza dare nessun messaggio. Però se fate un'indagine vedrete che di overdose di cocaina ne sarà morto uno su un milione che l'hanno usata. E allora mettendole in ordine di pericolosità queste droghe, ecstasy, MDMA, cocaina, io alcol? Io penso che quelle sintetiche siano le peggiori, anche proprio perché essendo sintetiche sono state con prodotti della pessima qualità. Come le fanno addirittura, ho sentito, con gli scarti, sì, gli acidi delle batterie. Questo è uno dei problemi, il tipo di pasticche che ci sono, che certo, vengono spacciate, ovviamente. Certo. Chi si droga di più? Abbiamo detto 20-40 anni, sono i giovanissimi o anche i quarantenni o i 35enni, 30 anni? No, ormai penso che sia passato per il quarantenne. Quindi di più i ragazzi? Sì, i ragazzini. Qui c'è una fascia ben precisa che si potrebbe, diciamo, studiare, capire, recuperare più facilmente. Sicuramente, sicuramente, però è anche la fascia più debole, insomma. Sicuramente. Facendo una percentuale, no? Chiudo gli occhi, mi immagino di essere dentro in una discoteca adesso. Quanti sono quelli sani e quanti sono quelli fatti, chiamiamoli così? Dipende da quale discoteca vogliamo entrare, tutto lì. Perché se entriamo in un Cocorico, io e lei siamo quelli sani. E il 90% intorno sono tutti sani? Sì, perciò, però se io e lei... A questi livelli, cioè il 90%? Non ci divertiamo, perché siamo noi quelli non sani. Perché noi essendo i normali, non siamo fuori da tutto quello che è il concetto e il divertimento di quella, di quel locale, di quella data serata. In altre discoteche invece la percentuale cambia, si rovescia. Cambia totalmente, totalmente. Cioè c'è una maggioranza di persone sane che balla. Sanissima. E qualcuno che magari si è fatto un po' troppo. Può essere qualcuno perché magari si è bevuto due bottiglie di vodka, allora eccede anche. E si sa quali sono queste discoteche, qual è una discoteca in un modo e qual è l'altra? Si sa già, si sa bene. Lo sanno male, tutti. Insomma, ci sono discoteche che proprio lo si sa dall'ingresso, perché è il selector che fa la discoteca. Io ho fatto questo lavoro per 30 anni, perciò già l'immagine, l'impronta la do io all'ingresso. Certo. Faccio entrare determinate persone che sicuramente, non dico che sono santi, però... Però ci 99% ci ho sempre infreccato. Pucci, sa riconoscere uno che è fatto, che è drogato, che sta entrando o sta uscendo dalla discoteca? Lo sai riconoscere? Da quando al scende volo. Dalla macchina. Subito. Perché drogato, si vede. Che è bevuto. E no. Cosa fa un buttafuori che ha, diciamo, il tuo stile? E che viene ingaggiato alla discoteca nostra, anche per quello, diciamolo. Cosa sì, fa quando vede uno così? Da parte nostra un door selector ha solamente due armi dalla sua, diciamo, che la pubblica sicurezza gli può fornire. Sì. Il fatto che io non ti faccio entrare perché sei alterato fisicamente, psichicamente. Te lo dico. E la seconda perché l'abbigliamento non è consono alla serata. E questa cos'è? No. Una scusa per non dire, sì, la prima cosa? Certamente, gli dico: guarda, mi dispiace, però il tuo abbigliamento non è consono alla serata, e come vedi io sono all'ingresso in giacca e cravatta, e allora capisci, non ti posso far entrare con l'inzadito vestito come un albanese che è sbarcato ieri pomeriggio a Lampedusa. Sì. ho capito, però se invece si presenta uno fatto, che è ben vestito, lì cosa riesce a fare? A dire? Uguale, stessa cosa, dico, guarda, penso che non sia la tua serata, perché... E in genere riesce a convincerlo a tornare indietro? Io sempre, guardi, si può chiedere in giro, perché appunto sono conosciuto, per fortuna mi avete chiamato, penso, per quello. Sì. Io sono sempre riuscito e ho sempre lavorato in discoteche da 3.000 presenze da solo. Facevo selector e sicurezza, perciò penso che questo è un lavoro che si fa con la testa, non con i muscoli. Anche se di muscoli lo penso anch'io, lo penso anch'io, anche se bisogna magari esibire qualche muscolo per intimorire. A proposito di muscoli, anche io intimorivo perché sono 1,90 m per 110 kg. Immagino, posso immaginare. Ma a proposito di muscoli, non solo fisici, ma anche, diciamo, in senso esteso, la polizia. Fa i controlli nelle discoteche? La polizia fa i controlli che gli dicono di fare, però non è il controllo come andrebbe fatto. Ma questi controlli che vengono fatti sono pochi, magari fuori, sì, o dentro? Sono pochi, fuori e o dentro? Ma dentro, facendo entrare la polizia in divisa, come per dire, chiude la serata, cioè basta, finisce con il rosso quando c'è il poliziotto all'incrocio. Ma in Borghese invece entrano la polizia qualche volta, perché io mi metto nei panni del questore di Rimini, che ha voluto chiudere il Cocorico e che magari aveva già dei sospetti, perché si sa, come sta dicendo, sì, anche Pucci, si sa, ci hanno delle notizie e informazioni, perché non mandare dei poliziotti in Borghese a cercare di fermare qualche spacciatore? Ma sicuramente li manda, però parliamo di discoteche con una sequenza di 6-7.000 persone, cosa possono fare? Potrà mandare 3, 4, 5, non penso che ne hanno più. Però qualcosa riuscirebbero forse a pescare. Ma sicuramente non è che non fanno i controlli per non infastidire, come stavi dicendo, i clienti della discoteca? No, assolutamente. Controlli li fanno. Sì. Però non è neanche. Io attuerei diciamo una norma, come per dire, c'è Ibiza. Ibiza adesso è capo mondi per il mondo della notte, sì. È il numero uno al mondo. C'è una discoteca che apre il lunedì, si chiama 10-10, apre dalle ore 16 alle 3 di notte, e si chiama proprio 10-10 perché è a ridosso del campo d'aviazione di Ibiza, perché una volta un 10-10 cade dentro la discoteca, perciò gli è andato questa bomba. Sì. Ha un piazzale antistante la discoteca, sì. Grande, facciamo conto, non so, 50 volte Piazza Navona, è una roba enorme. È gigante, sì. Quindi? È gigante. dato che ha una presenza questa locale di 8, 9, 10, 11 mila persone, quando si arriva, ma tutti, anche quando vado io, c'è uno zigzagare di 300 poliziotti con le macchine dove fermano tutti quanti. Vedi, quello che senza essere stato a Ibiza, immaginavo che anch'io che si dovesse fare, perché mi sembra una cosa banale, è stato detto, è stato scritto, ci vorrebbero dei controlli. E quindi poi come evolve a quel punto la serata? Ah, evolve che io e tu, quello del tu, ma io e te, sì, che sappiamo che vogliamo andare lì e abbiamo della roba, sicuramente. Ah, certo, non ci andiamo. No. Andiamo a rischiare. Quindi 4 anni per andare a parlare al DC10. Tanti agenti fuori dalla discoteca, tanti, che filtrano tanti il passaggio. E la stessa cosa risuccede all'uscita. Ma diventa un po' come allo stadio, praticamente. Dove bravissimo. Dato che dicono che la Spagna è dietro a noi, noi siamo dietro alla Spagna di 50 anni. Sicuramente a livello turistico, anche se Rimini, per dire, era l'Ibiza 30 anni fa, però adesso siamo, si sono rovesciate, siamo rimasti indietro, sì, ci siamo veramente fatti mangiare. Ma a proposito della decisione di chiudere poi il Cocoricò, la condividi o no? Dopo la morte di Lamberto, se dice. No, assolutamente. Uno, perché da lavoro a più di 220 persone e la struttura è sana. Perché io una cosa che metterei come regola, metterei l'entrata ai minorenni vietata. Quindi condividi la proposta di Giovanardi, sì. Anche se con Giovanardi ho già avuto 30 anni fa, quando incominciò le sue lotte sulle stragi del sabato sera, io me lo ricordo perché ero al Paradiso e lui venne al Paradiso e ebbi un po' da parte peccare, però insomma, giustamente lui devo dare un piccolo break pubblicitario. Pucci, se hai ancora un minuto per restare con noi, ci salutiamo. Ok. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Questa è una citazione, perché questa è una citazione. Abbiamo citato Focus Economia, questa è una delle basi. È così, Paolo Corleone in regia. Vabbè, di quelle che non piacciono a Coccoluto, eh? Poi dopo risentiamo anche Coccoluto, perché devo dire che anch'io preferivo Coccoluto. Eccolo. Yes, I'm gonna be strong. In compagnia di Pucci, Marco Cappelli, ex Buttafuori, per, abbiamo detto, quasi 25 anni hai fatto questo lavoro. Sì, 25 anni, poi ho continuato come door selector, che è il lavoro più importante all'ingresso dei locali. Ti piace ancora fare questo, occuparti di questo, sì, mondo? Sì, sì. Non hai avuto nausea, problemi? Perché no. A un certo punto si vedono anche delle situazioni magari pesanti. Qual è la situazione più pesante che hai visto? Ma diciamo che pesante a livello di gente di star male? Sì. Ma forse sì, quello appunto bevuto, il bevuto veramente. C'è gente portata via in ambulanza, l'hai vista? Sì, sì, quello diverse volte. E lì non ti viene il dubbio di dire basta, mollo, perché siamo in un ambiente di pazzi? No. Ma io, la mia testa, non mi drogo, non bevo, sono in dieta 365 giorni all'anno. E quindi non è un problema tuo. Però no, lavorare in un ambiente così. Ma il mio è un lavoro, lo faccio da professionista, apprezzo i pro e i contro della serata. Quindi però mi sembra aver capito che cerchi anche di scegliere di lavorare nei luoghi dove c'è meno ingresso di droghe. Beh sì, naturalmente, però non è che posso escludere che anche se vado a lavorare al Vaticano che non ci sia. Beh no, però per quanto ti è dato sapere, preferisci lavorare in discoteche che hanno una, sì, politica. Sì, giusto, sì, ma chi è che sono, stabilisce la policy della discoteca, cioè sul fatto che, di questo permissivismo per quanto riguarda le droghe? È proprio, cioè, ma secondo me è lo stesso pubblico che lo fa da solo. È la moda che si muove. Sì, è la moda. E il gestore di una discoteca non si può opporre più di tanto. Sì, insomma, qui perché vuol dire rifiutare il pubblico. Ci sono discoteche che costano milioni e milioni di euro, insomma, specialmente siamo famosi noi, la Romagna. Visto che prima hai citato Coccoluto, di cui sono super amico e ha lavorato con me per 20 anni, mi conosce benissimo, sa che tipo e come lavoro. Mi dici il nome di 4-5 discoteche belle dove andare e dove in, allora, questo momento non c'è? Big veramente, qui c'è il Pineta, Milano Marittima, poi c'è Biblos, Misano, Villa delle Rose e Peter Pan. Grazie, buona serata. Grazie, Marco, grazie, Cappelli, è stato un piacere. Pucci. Ok. Ciao. Un bacio, grazie mille. Ciao. Adesso un altro saluto da Expo di Carlo Gabardini. Parlo con Grazia Sambruna, che lavora anche lei qui a Expo praticamente dall'inizio, è quella che ha aperto, credo. E, ci racconti qualche cosa di Expo che non abbiamo già sentito? In realtà, allora, Expo si parla di cibo, io potrei consigliarvi umilmente i padiglioni in cui si mangia un po' meglio, magari. Esatto, a noi questo ci interesserebbe moltissimo, diccelo. Esatto, allora, c'è un padiglione che magari non è il primo che vi verrebbe in mente per quanto riguarda la cucina, invece lì si mangia molto molto bene, la Bielorussia. Consiglio in particolare la carne di vitello, che è una cosa proprio che si scioglie in bocca e mi viene fame solo a pensarci. Oppure in Corea si mangia molto bene. Ci sono dei sapori molto particolari rispetto a quelli a cui siamo abituati, cioè ovviamente non ti trovi lì le lasagne o la pasta al forno, ecco. Però c'è allora il bibimbap. Mi sono ricordata il nome, mi faccio un applauso da sola. Il bibimbap, che è un insieme di carne, verdure, piccanti, noodles, tutto messo insieme, che detto così non sembra buono, invece è veramente buonissimo. Si chiama anche il gran mischione questo, mi sembra. Ma scusami, la Corea e la Bielorussia quanto sono distanti una dall'altra? Poco, in realtà. Cioè sono proprio, forse, sì, cioè Corea, no, prima la Bielorussia e poi la Corea, o viceversa. Comunque sono molto vicine. Vedi, la geografia è completamente esplosa qui a Expo. Ciao Alessio, ti saluto moltissimo. Ciao! Eccolo qua, Carlo Gabardini, ci rivedremo in studio settimana prossima, ci risentiremo tra un pellegrinaggio e l'altro di Carlo, un po' qua, un po' là. Abbiamo, chi abbiamo? Un po' di ascoltatori, cominciamo con Fabio dalla provincia di Roma. Pronto? Fabio, buonasera. Buonasera a lei, senta, io sono un medico. Sì. E ho avuto la fortuna e l'esperienza di lavorare in contesti ricreazionali dove presumibilmente si faceva un grande consumo di sostanze sul finire degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Scusi, cos'erano questi contesti ricreazionali? Discoteche? Discoteche, ma non solo, rave party, after hour. Sì. E lei che cosa ci faceva come medico? Io facevo il medico. Cioè veniva chiamato per degli interventi? No, andavamo lì con equip di a fare prevenzione. Facciamo prevenzione, informazione, riduzione del rischio sull'uso di sostanze. Ma si riesce a farlo proprio nel mentre, cioè proprio mentre la gente è lì che balla, che si diverte, arriva il medico che si mette a parlarmi, e certo, che succede? Certo. Ti figuri, noi eravamo delle persone, perché si parla molto delle discoteche, ma sì, ci sono dei contesti, cioè la discoteca è già un contesto pubblico riconosciuto, ma per esempio un consumo molto forte di sostanze si va nei rave party, che per definizione sono illegali. O nei centri sociali, sì. Sì, siamo stati anche dentro i centri sociali, che però sono sempre, insomma, luoghi conosciuti. Mentre per quanto riguarda i rave party sono contesti completamente illegali. Sì, sono zone anche tenute segrete, sono cose che accadono all'ultimo minuto. Noi, sì. Esatto, noi avevamo l'informazione alle 11 di sera e ci dicevano dove... Avevamo dei contatti, insomma, con gli organizzatori che ci dicevano... Fabio, ho capito, ma come mai parla al passato? Questa cosa non la fa più? Non la faccio più perché adesso faccio... Cambiato il medico, faccio il medico standard, il medico di famiglia, diciamo. Però le è piaciuto fare questa esperienza? Moltissimo, io ho lavorato in tutta la riduzione del danno. E c'è ancora gente cioè colleghi medici che lo fanno ancora, ci sono, certo, sì. Io adesso, diciamo così, mi sono invecchiato perché ho 53 anni. Ci sono non si butti giù. No, però ci sono dei colleghi miei più giovani che fanno ancora questi interventi, anche se ultimamente le politiche hanno fatto sì che questi tipi di interventi diminuissero. Perché cioè ci sono meno soldi, ci sono meno finanziamenti? Ci sono meno soldi, perché sul consumo dell'ecstasy, sì, l'ecstasy è una similanfetamina, è metilendiossimetilanfetamina. Bisogna sapere come funziona, cioè se uno... Io ho anche due figli di 19 e 30 anni. Il mio problema, alla fine, è che i miei figli non facciano uso di sostanze, ma ammettiamo il caso che ne facessero uso, dovrebbero essere informati. Vero, verissimo. I proibizionisti hanno paura di parlarne e sbagliano moltissimo. A me non mi interessa né dei proibizionisti. No, ma lo dico io. Io lo credo. Credo che chi proibisce poi vieta anche che se ne parli, che si possa usare, per esempio, anche in Italia il pill test, che può testare le pillole e far capire a chi le sta per ingoiare se ci sono sostanze pericolose. Tutto questo bisognerebbe farlo. Lo dice lei che è medico, quindi. Mi accoda a quello che dice lei, Fabio. Grazie, buona serata. Adesso titoli, TG La 7. Una valanga di emendamenti alla riforma costituzionale, sono più di 500.000, quasi tutti presentati dalla Lega, oltre che dalle opposizioni e dalla minoranza del PD. Il punto più controverso resta il Senato elettivo, un'ipotesi su cui Chiti, proprio uno dei dissidenti democratici, dice che ci sono i numeri, ma Renzi è sicuro, la maggioranza c'è e ci sarà anche sulle riforme, ha detto. E dopo la RAI, Renzi apre un'altra partita, quella del Sud. Dobbiamo rottamare il Piagnisteo, risolvere i problemi, dice davanti alla direzione del suo partito. Però poi avverte, sbaglia chi pensa di strumentalizzare il Mezzogiorno per questioni interne e trova su questo l'appoggio di neogovernatori di Campania e Puglia, De Luca e Emiliano. È durissima la presa di posizione del Papa sui migranti. Respingere i profughi è un atto di guerra e di violenza, un conflitto non risolto, ammonisce Bergoglio. È sempre emergenza intanto al largo delle nostre coste, dai sopravvissuti nell'ultimo naufragio costato centinaia di vittime il racconto di episodi di tortura sui barconi da parte degli scafisti. Saltano almeno per ora 80.000.000 degli oltre 112 previsti destinati ai cittadini della Val di Susa come compensazione per l'impatto ambientale dovuto al passaggio della linea ad alta velocità Torino-Lione. Quei soldi ci saranno, rassicura il ministro Del Rio, ma la notizia dei tagli potrebbe riaccendere la protesta del fronte del no alla TAV. È stato un venerdì da incubo sulle autostrade per una serie di incidenti, il bilancio di 2 morti, 6 feriti, ma soprattutto automobilisti bloccati per ore sulla 1 con una coda che ha raggiunto 13 chilometri e acqua distribuita dalla Protezione Civile per tentare di portare sollievo. Traffico rallentato anche sulla A14. 230 civili sono stati rapiti in Siria dai jihadisti dell'ISIS, tra loro anche 60 cristiani. Erano ricercati dai miliziani per il loro presunto collaborazionismo con il regime di Assad. Ad affermarlo è l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani, che cita fonti locali secondo le quali tra i sequestrati ci sarebbero anche donne e bambini. Si può fare. L'attualità anche d'estate. Ben ritrovati di nuovo, buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Abbiamo, chi abbiamo? Luca che ci chiama da Roma. Buonasera Luca. Pronto, buonasera. Prego. Sente. Sì, forte e chiaro, tocca a lei. Buonasera, io mi volevo... Si voleva? Il dottore di Giulio, no? Sì. Ha detto delle cose che in qualche modo mi riguardano. Io ho fatto sport, io ho 50 anni, ho fatto sport, ho fatto atletica leggera e avevo raggiunto ottimi risultati. Che disciplina nell'atletica leggera? Cosa faceva? Saltava, correva? 200 metrista. 200 metri. Che tempi aveva sui 200? Se lo ricorda? 21. Sì. 21? Beh, insomma, mica male. A che età? A che età? 17-18 anni. Non so se a 17 anni si riesce poi a crescere, a migliorare molto. Probabilmente sì, perché uno è giovane a 17 anni. Quindi che è successo poi a quel punto, Luca? È proprio questo il punto. Il punto è che non ha avuto, come diceva l'ascoltatore di prima, non ha avuto il sostegno della famiglia, nel senso che avrei per esempio voluto... Volevano che studiasse, volevano che andasse a scuola, immagino. No, sì, quello sì, senz'altro, la base era quella, però volevo per esempio che mio padre mi seguisse molto di più e questo non c'è mai stato, o al limite anche una volta sola mi venisse a vedere durante gli allenamenti. E lei adesso ha un rimpianto un po' per quel periodo lì, perché avrebbe voluto spingere di più sull'acceleratore. Ma invece a 10 anni, mi tocca la curiosità perché siamo partiti di lì, era già in ballo con l'atletica o no? Ah, ecco, esatto, a 10 anni io invece, anzi un po' prima, iniziai invece col nuoto. Sì. E all'epoca c'era, perlomeno qua a Roma, non so se negli altri posti, c'era, io avevo paura dell'acqua. Vabbè, questo tutti i bambini. Però nel nuoto non ha raggiunto i stessi risultati, diciamo, clamorosi. No, lì c'era la tecnica che chi aveva paura dell'acqua veniva buttato in piscina all'improvviso. Cose che adesso non si fanno più, c'è tutta un'altra tecnica, molto più soft. Chissà se è meglio o se è peggio. Luca, grazie, buona serata. Sua crisi, diciamo, è arrivata un po' dopo rispetto al caso della bambina del Bahrain, no? Di 10 anni, Tarek, che ha nuotato alla Coppa del Mondo. Però la storia è un po' la stessa. Walter, dalla provincia di Modena. Prego. Buonasera. È un altro il mio argomento, cioè io ho sempre costruito case fin quando per gioco lo facevo con le zollette che trovavo nel campo. Poi avanti ho inventato, sono diventato geometra e dopo per tutta la vita ho progettato e costruito case. Cioè, un momento, adesso ho capito. Lei fin da bambino ha cominciato a giocare con le zolle di terra? Sì, ero figlio di contadini, insomma. Immaginava di costruire. Ero le zollette, no? Sì. Quello era un gioco. Poi dopo avanti. Ma che gioco era, scusi? Come ci giocavano queste zollette? Si faceva conto, come ho visto i muratori con i sassi che facevano i muri, e io lo facevo così. Ne metteva una sopra l'altra proprio. Ne metteva una sopra l'altra per fare dei muretti. Certo, e poi dopo. No, ma io imitavo le case a 3 piani. E poi dopo avevo lo zio che mi cancellava tutto, ma questo. Poi dopo c'era un'altra invenzione, ma ho continuato per tutta la vita. Scusi Walter, un attimo. Cosa è diventato poi nella vita? Lo stesso mestiere. Ho 75 anni, ho sempre costruito e attualmente cos'è? Geometra, progettista? Progetta ancora alloggi. Sì, allora io sono già... C'è una ditta sua. Io ho avuto la fortuna, si chiama fortuna, di studiare poi la notte, perché avevo solo la terza media e due classi dell'ITIS, in poche parole, no? Poi ho dovuto smettere di studiare e qui a 15 anni ho diretto il primo cantiere da 9 alloggi. In un paese, e questo è bello, perché andare a vedere quello che hai fatto quando avevi 15 anni, eravamo esattamente nel 50. Però scusi Walter, abbiamo detto che da bambino giocava con le zolle, è diventato geometra progettista, ma quando aveva 15 anni faceva quindi il muratore, ha fatto tutti i gradini, perché si è malato mio padre e io il disegno lo conoscevo bene per via dell'ITIS. Sì. Il capomastro dicevo che porta sfiga, perciò è caduto e io ho dovuto seguire, visto che esiste. Quindi diciamo che nel suo caso la passione che aveva quando aveva 7 anni l'ha portata lontano, è riuscito a farla crescere, a farla maturare. Nel 64 ho tentato di andare all'università già iscritto e poi arrivò l'alluvione a Firenze, perché poi il mio pallino è sempre stato disegnare, eccetera. Complimenti Walter, grazie, buona serata, grazie, traffico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Se potessi avere 1000 lire al mese, senza esagerare, sono certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina, tale quale come te, se potessi avere. Una premessa così era necessaria prima di parlare con Nicoletta Polla Matiot, giornalista direttrice di How to Spend It, mensile Il Sole 24 Ore. Ciao. Ciao. Non so se ti abbiamo preso alla sprovvista, però. con questa bella musica. Se potessi avere, allora come spenderei? Senti, una uscita nell'edizione di agosto, Giro del Mondo in moto, auto, barca, astronave. E insomma, ci sembrava interessante vedere quali sono i consigli che ti senti di darci in questo, diciamo, agosto, in cui forse qualcuno non ha ancora organizzato tutte le sue vacanze. Senti, l'idea era proprio di fare un numero dedicato a chi o è già in vacanza, è già partito, sì, e quindi di accompagnarlo nella sua vacanza, oppure chi deve ancora partire o chi invece quest'anno le vacanze non le fa, ma magari le programma o quantomeno le vuole sognare. Per cui sta lì alla finestra, insomma, studia i prossimi itinerari. E quindi l'idea appunto è stata di sì, diciamo di viaggiare, di pensare a un numero con ognuno il suo viaggio e ognuno anche un po' la sua velocità, no? Perché poi ci sono vari modi di concepire le vacanze, il piacere, il momento di, sì, di riposarsi. Alcuni preferiscono appunto viaggiare lontano, avere delle destinazioni. Ecco, prima però di arrivare lontanissimo l'astronave, adesso poi sveleremo perché, cominciamo con la moto, per esempio. Cominciamo con la moto. Questi abbiamo un po' di viaggi, diciamo così, sportivi, sì, anche ultra tecnologici, diciamo così, dove appunto c'è per esempio un percorso fatto e provato in diretta, perché questa è la caratteristica di Autospendit, il fatto che tutte le esperienze che noi proponiamo sono comunque testate mm-hmm, in prima persona. E quindi la storia di copertina è proprio un racconto di un viaggio in moto su un esemplare di moto molto particolare in serie limitata, un itinerario da Roma a Bologna, quindi apparentemente niente di troppo impegnativo. Quindi invece alla portata di tutti, anche economicamente, penso, spero, no? Assolutamente sì, come itinerario. Fra l'altro abbiamo proprio ripercorso quelle che sono un po' le vie dei veri amanti delle sì, due ruote. Tante e curve. Si possono, esatto, tante curve, tanti tornanti, e il passo della Raticosa, che è un passo particolarmente amato dai motociclisti, e tutto fatto appunto per testare proprio un modello di moto molto particolare. Pensa che molto io l'ho particolare. Fatto in Vespa tanti anni fa, quando viaggiavo da Pisa a Bologna con la Vespa, e quindi un pezzo di quella strada l'ho fatto anch'io. L'auto. L'auto, presentiamo tre modelli d'auto molto veloci, diciamo così, ma non è ovviamente non è solo l'occasione di presentare tre nuovi modelli d'auto, ma ovviamente l'auto si può percorrere. Si può andare ovunque poi con l'auto. Esatto, si può andare ovunque, mette tante, te ne dico una sola che può invece essere l'opposto, diciamo così, del viaggio veloce, sì, in moto che abbiamo detto prima. C'è una Provenza che ripercorre un po' gli indirizzi più belli, e fra gli indirizzi più belli ci sono anche i luoghi proprio dove era stato girato quel film Un'ottima annata, quello, ti ricordi, sì, con Russell Crowe, insomma, che è proprio l'immagine più romantica, se vogliamo, no? Più tradizionale della Provenza, ma per chi sogna un po' di riposo in questo momento può essere una buona meta, diciamo. E poi c'è la barca. Qua, vabbè. Poi c'è la barca, e un tipo particolare in realtà di, sì, barca, perché questa volta ci siamo voluti concentrare sulle barche d'epoca, e quindi paradossalmente su barche che sicuramente sono forse più lente, meno performanti, insomma, dei modelli nuovi, ma che hanno dei cantieri specializzati, sì, che si occupano proprio di restaurare. Sono dei piccoli gioielli che raccontano anche una storia, non soltanto appunto un mezzo di trasporto, ma appunto dei veri e propri contenitori di storie, alcune anche leggendarie, perché in realtà siamo andati a vedere anche alcune delle regate più belle di queste barche storiche. Sono barche a vela bellissime, con queste vele, sì, di una volta. Anche che magari chi appunto come me non ha mai fatto questa esperienza, perché non la conosco, però è affascinante. Le foto sono molto accattivanti di queste barche d'epoca. E poi chiudiamo con l'astronave. C'è un motivo per cui siete arrivati fin là, vi siete spinti fin là, Nicoletta. In realtà ovviamente questo è un pretesto, però in questa pagina, che è un appuntamento fisso del giornale, che è un incontro, c'è un solo personaggio in Autospendito ogni mese, e ogni mese un personaggio rappresentativo, diciamo così, dell'Italia, e nel suo campo il numero uno. E quindi in astronave è inutile dirlo, abbiamo chi può voluto essere? Incontrare chi può essere? Samantha Cristoforetti, che però ci lascia con un bel messaggio. Perché sì, io credo che il messaggio di Samantha sia un bel messaggio di ottimismo per tutti, a prescindere dal fatto che si sia in vacanza o no, sì, a prescindere dal fatto che sia stato un buon anno o un cattivo anno. Sostanzialmente lei dice: nessun luogo è lontano, e se lo dice lei, che appunto ha raggiunto quello che lei dice era il sogno di tutta una vita, sì, no? E questo sogno stava a 29.000 chilometri orari di percorso, ecco, diciamo, se lo dice lei, ci dobbiamo credere. È anche il titolo di un programma di Radio 24 al momento, tra l'altro, d'estate, e però è bello anche il titolo: mai perdere la leggerezza, l'umorismo è una dote, e secondo lei aiuta anche ad arrivare lontani. Grazie mille Nicoletta, grazie per essere stata con noi, direttrice di Autospendit. Noi siamo quasi in chiusura, sì, però dopo questi consigli su cose un po' particolari da fare quest'estate abbiamo ancora il tempo, sì, perché no, di sentire Paolo da Milano, per esempio. Paolo, buonasera. Buonasera a lei. Eccolo, tocca a lei. Ok, buonasera a tutti. Volevo ritornare sul discorso delle discoteche. Sì. E secondo il mio pensiero, trovo che non sia giusto chiudere una discoteca perché è morto dentro una persona. Perché poi posso fare un pensiero che farà ridere e anche un po' stupido, e pensare a una discoteca dove si balla il ballo liscio e c'è qualcuno che, anziché spacciare delle pastiglie di droga, spaccia delle pastiglie per i vecchietti, quelle pastigliette blu. Cosa fa? Se muore lì dentro uno, sì, per quelle pastigliette lì che fanno? Chiudono la discoteca. Il Viagra. Il Viagra. Sì, sì, però è mai morto qualcuno per il Viagra? Non credo. Farebbe notizia. No, come non farebbe notizia? Perché non morirebbe dentro la discoteca, perché sì, la spacciano lì e poi dopo... No, ma lei ha ragione ad allargare il campo, sono stati fatti tanti paragoni. Chiudiamo le sagre estive perché si beve la birra e ogni tanto qualcuno fa l'incidente perché ha bevuto, oppure chiudiamo tutto perché si rischia ovunque. Però questa ci mancava, il paragone con la balera. Grazie Paolo. Abbiamo ancora, chi abbiamo? Claudio da Napoli, vai. Siamo stati poco al sud oggi, tutti a Milano. Claudio? Va bene, adesso vi parliamo di Napoli. Anche qui ha piovuto oggi. Ah sì? Buonasera a tutti. Quindi ha rinfrescato, finalmente ha rinfrescato. No, ancora più caldo. Ha fatto quelle piogge, come le chiamano, i temporali di calore. Esatto, di torrenziali, calore. Ma fa ancora più caldo. Senta, io mi volevo collegare un attimo in 30 secondi, però, perché sì, dobbiamo chiudere, mi spiace Claudio. La mia è solo una riflessione. Il ministro Calderoli ha dichiarato che in 2 mesi di lavoro hanno fatto 500.000 emendamenti. Sì. Bene, io ho fatto un calcolo che se avessero lavorato tutti i giorni, compreso il sabato, per 10 ore al giorno, avrebbero dovuto fare 1.000 emendamenti all'ora. Mi chiedo se è possibile. Lunedì calcoliamo quanti farebbe al secondo per vedere se lei ha ragione. Grazie Claudio, buona serata. Un ringraziamento a Isotta Scenna, Leonardo Siligato, Grazia Gala, Paolo Corleoni in regia. Ciao a tutti, da Alessio Maurizi, lunedì prossimo 18:20:30 con Si può fare. Ciao, ciao, ciao. Aiutatemi!